GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Manovra regionale d'autunno, aiuti alle imprese per 56 milioni, potrà slittare la seconda rata IRAP, rincari energetici 10 milioni ai comuni. La crisi fermerà la crescita, ma solo il prossimo anno. Intanto Confindustria rivede al rialzo il PIL regionale. Cimolai, in tribunale, chiede il piano anticrisi. Infrastrutture, il libro bianco di Unioncamera. Cosa manca al mondo produttivo per andare veloce? Sciopero nei trasporti. Oggi non si vola. Vertenza Flex, slitta la decisione sugli interinali. Tavolo al Mise, aggiornato al 27 ottobre. Termovalorizzatore di Trieste, inaugurata la nuova linea, servirà 15.000 utenze in più. Udine, primi laureati al corso sulla sicurezza informatica, sull'uso degli smartphone a scuola, un confronto con 200 insegnanti. Il Teatro Nuovo celebra i suoi primi 25 anni, stasera l'apertura della stagione con l'Orchestra Sinfonica della RAI, anche a Monfalcone il Comunale apre con la grande musica. Calcio Serie C, doppietta di Deli e il Pordenone batte il Trento 2-0, Neroverdi secondi in classifica. Il tempo, il cielo è da variabile a nuvoloso sulla regione questo 21 ottobre, le temperature registrate alle 6, Trieste 15,5 gradi, mare calmo con temperatura di 21 gradi, Gorizia 13 gradi, Udine 15,5 gradi, Pordenone 14, Tolmezzo 14 gradi, Tarvisio 8,5 gradi, Forni di Sopra 10,5 gradi, Piancavallo 8 gradi, Sappada 9, Monte Zoncolan 6,5 gradi, Sull'Ussari 8 gradi, Grado e Lignano 16 gradi, la temperatura del mare in laguna 20 gradi. Le previsioni oggi, cielo in genere variabile con aumento della nuvolosità nel corso della giornata, specie sui monti e ad est. Soffierà vento da sud, moderato sulla costa, da sud-ovest anche sostenuto in quota. Dalla sera possibili debole piogge, specie a est. Buongiorno da Dario Ronzoni e Nada Cioc. La giunta regionale rafforza il sostegno alle aziende in crisi di liquidità e destina 56 milioni della manovra autunnale allo slittamento della prossima rata IRAP. Altri 10 milioni aiuteranno i comuni a sostenere i rincari energetici. Ancora un assestamento di bilancio per dare fondi alle imprese. La giunta regionale ha approvato emendamenti per un totale di 64 milioni di euro. 56 milioni saranno destinati allo slittamento della seconda rata IRAP 2022 per le imprese, che avranno la possibilità di versare l'acconto in sede di saldo. Una risposta importante da parte dell'amministrazione, ha sottolineato l'assessore alle finanze Zilli, sia in termini di equità tributaria, sia per garantire liquidità alle aziende in un periodo dai rincari energetici. I 64 milioni vanno a sommarsi ai 214 già stanziati la scorsa settimana e sono frutto di ottimizzazioni. 1.360.000 euro invece la somma destinata a FVG Strade per l'aumento dei costi di illuminazione della rete viaria e delle gallerie, mentre le opere di messa in sicurezza della viabilità attorno all'area ex Dormish a Udine saranno finanziate con 800.000 euro. Il fondo di rotazione per l'agricoltura prevede inoltre 2 milioni di contributi per spese di investimento per la commercializzazione della produzione agricola. Altri 10 milioni di euro, invece, quale anticipo di spesa del 2023, saranno stanziati a favore dei comuni al fine di contrastare le difficoltà legate al caro energia. L'assessore alle autonomie locali, Roberti, la definisce una misura messa in atto a partire già dall'assestamento, senza aspettare l'approvazione della legge di stabilità, per dare certezze alla programmazione dei bilanci dei comuni. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. La crisi energetica fermerà la crescita, ma nella nostra regione la frenata arriverà solo il prossimo anno. Intanto Confindustria regionale ha rivisto al rialzo il PIL di quest'anno. Dopo una risalita del PIL più forte delle attese, lo stop nel 2023, il report d'autunno di Confindustria regionale conferma il quadro previsto per il paese. La crisi energetica fermerà la crescita anche in Friuli Venezia Giulia, che meglio di altre regioni ha reagito agli effetti della pandemia e della guerra in Ucraina. Dai dati aggiornati al 18 ottobre, il prodotto interno lordo della regione nel corso dell'anno dovrebbe compiere un ulteriore balzo in volume del 3,2% rispetto al 2,7% stimato a luglio, per poi poi azzerarsi. Causa inflazione, riduzione del potere d'acquisto e caro bollette, previsto per l'anno prossimo un calo dei consumi delle famiglie e degli investimenti. Crollano anche le esportazioni, dopo una crescita negli ultimi 12 mesi a doppia cifra. Resiste bene solo l'occupazione, con la disoccupazione che continua a scendere. Per il presidente reggente di Confindustria Friuli Venezia Giulia, Gian Pietro Benedetti, la sfida per l'industria è quella di mantenere competitività e valore aggiunto con un nuovo sforzo manageriale e imprenditoriale. Esprimono intanto forte preoccupazione i sindacati. Il segretario generale della CGIL, William Pezzetta, segnala l'esplosione delle richieste di cassa integrazione per i costi energetici insostenibili. È un'occupazione che c'è, riconosce, ma è sempre molto precaria a fronte di una povertà che definisce dilagante. Richiama il tema salariale il segretario generale della UIL, Matteo Zorn, e l'urgenza di interventi di sostegno con al centro la salvaguardia occupazionale. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Il rafforzamento della logistica, in particolare delle infrastrutture ferroviarie, tra i capitoli principali del libro bianco di Unioncamere presentato a Trieste, che ribadisce la difficoltà di raggiungere il capoluogo, il Friuli Venezia Giulia, con aerei e treni. Qualche decennio fa si parlava di corridoio 5, poi di alta velocità, poi di potenziare la linea esistente. Sono passati 30 anni e i treni viaggiano velocissimi in tante tratte italiane, ma non da Mestre a Trieste, un problema vecchio ma sempre attuale anche nell'illustrazione da parte di Unioncamere del libro bianco sulle infrastrutture, che colloca questa tra le 10 priorità su cui intervenire. La risposta di Rete Ferroviaria Italiana con Carlo De Giuseppe. Potenziare la linea esistente fondamentalmente si basa su due aspetti: l'aspetto tecnologico, sul quale si sta già lavorando, anche se è un lavoro che non si vede perché è fatto dentro la stazione, quindi non si vede, e che comporterà un guadagno di tempo di 10 minuti, quindi niente di trascendentale, per un guadagno c'è. E poi bisogna intervenire sulla rettificazione delle curve, ma questo significa incidere sul territorio. Allora la domanda che noi ci dobbiamo porre è: il territorio vuole rettificare le curve? Vogliamo incidere sul territorio? RFI è disponibile a farlo, ma senza il consenso del territorio non lo possiamo fare. Il presidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia, Antonio Paoletti. Per fare un'opera oggi ci vogliono 10 anni, 15 anni, perciò io auspico che questo governo che verrà metta dei commissari tipo stile Genova, il ponte famoso, che sblocchi tutte queste opere fondamentali, perché non si può pensare di arrivare da Roma a Venezia in 3 ore e poi altre 2 ore e 10 per arrivare a Trieste, ragionerei. Noi su questo, come sistema generale, stiamo battendo forte. Anche l'aeroporto, nonostante le grandi potenzialità garantite tra l'altro dal collegamento con la ferrovia, è sottoutilizzato, ma in questo caso gli interventi sono già stati delineati. Marco Consalvo, amministratore delegato di Aeroporto Friuli Venezia Giulia. Stiamo costruendo dei programmi insieme soprattutto alla Regione. Dobbiamo arrivare nell'arco massimo di 3 anni ad avere degli hub di riferimento come Londra, Parigi e anche per il Far East, Istanbul e anche Dubai. Oggi lo sciopero nei trasporti che penalizzerà soprattutto il settore aereo. Aeroporti fermi per lo sciopero nazionale del personale ENAV, aderente alle sigle CGIL, CISL e UIL. All'aeroporto di Ronchi dei Legionari 8 i voli cancellati. Si tratta dei collegamenti operati da Lufthansa da Francoforte per Trieste Airport e viceversa. Saltati anche i voli di ITA Airways, DAI per Fiumicino e i collegamenti con Valencia. Sul sito web dell'aeroporto del Friuli Venezia Giulia si legge che saranno cancellati anche i primi 2 collegamenti di domani da Trieste per Francoforte e per Fiumicino. Anche Trenitalia fa sapere che dalle 9 alle 17 sciopererà il personale della direzione regionale del Friuli Venezia Giulia. I disagi potrebbero riguardare la nostra regione e il Veneto. Incroceranno le braccia i dipendenti del settore commerciale, delle biglietterie, di Rete Ferroviaria Italiana e di Mercitalia. L'avvertenza Flexi sarebbe dovuta concludere ieri al Mise, invece l'azienda non è arrivata a una sintesi formale sulle garanzie per il futuro del sito, pur ribadendo l'impegno nei confronti degli interinali. Il tavolo quindi è stato aggiornato a giovedì 27 ottobre. Antonio Rodà della UILM era presente all'incontro al Mise. Il tavolo è stato aggiornato al giorno 27, in quanto fondamentalmente l'intento del Ministero era quello di provare a chiudere una discussione, di uscire con un verbale che cercasse di riassumere 5 mesi di discussione e di trattativa che ci sono stati. Mancava da parte dell'azienda un impegno chiaro a sintetizzare quali azioni e qual è l'equilibrio occupazionale per mettere in salvaguardia il sito, che è quello che abbiamo chiesto noi. Invece rimangono le garanzie per gli interinali, che restano sempre delle garanzie, se mi è consentito, deboli, perché loro sono l'anello debole in questa storia. Sicuramente sì, questa resta, diciamo, la pagina più difficile di questa discussione. L'azienda ha tuttavia confermato, insomma, annunciato l'impegno a voler mettere in campo 3 mensilità di incentivo economico agli interinali che non avranno più la riconferma del rapporto di lavoro presso Flex. Ci saranno 7 stabilizzazioni su un totale di 69 interinali rimasti ancora in forza. E il diritto di prelazione prevale per tutti gli interinali che usciranno per 12 mesi in caso di future nuove assunzioni presso Flex. È evidente che però questi impegni vanno formalizzati e quindi anche per questo l'aggiornamento dell'incontro al giorno 27. Il giorno 27 al Mise siederà un nuovo ministro, avremo un nuovo governo. Voi temete che questo possa rallentare questa trattativa? No, in questo senso no, perché diciamo è una trattativa già avviata che è seguita dai funzionari del Mise. È evidente che al nuovo ministro chiederemo che nei mesi successivi di monitorare attentamente la questione di Flex. La questione energia, il termovalorizzatore di Trieste e la nuova linea di combustione permetterà di soddisfare il fabbisogno energetico di altri 15.000 utenze per complessive 180.000 famiglie. Energia in parte rinnovabile. Il servizio. Dai rifiuti già si produceva energia, ma ora se ne produrrà di più. È stata completamente sostituita una delle 3 linee di combustione del termovalorizzatore di Trieste, più efficiente ora il processo, che incenerisce i rifiuti in un forno a 950 gradi generando in una caldaia a vapore che va poi ad alimentare la turbina, vero cuore pulsante del complesso che grazie ad un rinnovamento da 37 milioni di euro arriverà a generare 145 gigawatt ora di elettricità l'anno, immettendo in rete energia sufficiente a soddisfare i bisogni energetici di 180.000 persone, oltre 15.000 in più rispetto all'assetto precedente, rendendo il termovalorizzatore di Trieste tra i più efficienti. Roberto Gasparetto, amministratore delegato di Acega SPS AMGA. Questo è uno dei maggiori e anche il più aggiornato, perché è finito da poche settimane. Fatto il più aggiornato in Italia dei vostri? Sicuramente. Un giusto riconoscimento alla storia che su questa materia Trieste ha accumulato negli anni. Una storia lunga 100 anni, quella della termovalorizzazione a Trieste, è stato ricordato nella conferenza stampa di presentazione del progetto. Tanti passi avanti fatti anche sul fronte ambientale. Paolo Cecchin, AD Est Ambiente. E questo impianto in particolare ha valori di emissione che sono di oltre l'80% inferiore ai limiti di legge. Inoltre non si riesce a distinguere quando l'impianto è acceso o spento se si va a misurare la qualità dell'aria circostante. L'avete fatto? Sì, certo, è una cosa che facciamo sempre in tutti gli impianti di termovalorizzazione. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Il nuovo disegno di legge sullo sconto carburanti sta incontrando pareri nel complesso favorevoli da parte dell'associazione di categoria e dei consumatori. La norma, attraverso una dotazione di 60 milioni, prevede tagli sui prezzi da 1 a 10 centesimi per i cittadini residenti nei comuni che distano meno di 10 chilometri dai confini di Stato. Il DDL, ha spiegato l'assessore regionale Scoccimarro, punta anche alla semplificazione, consentendo alla giunta regionale una maggiore flessibilità nella variazione dei prezzi del carburante. Pace fatta quasi per gli infermieri, i vertici dell'azienda regionale di coordinamento della salute, ieri l'incontro chiarificatore alla struttura operativa di emergenza. Rientrato l'annunciato stato di agitazione indetto da NURSIN, del sindacato delle professioni infermieristiche, per quanto riguarda la SORES, la struttura operativa regionale di emergenza sanitaria. Il NURSID, con lettera del 10 ottobre, aveva chiesto al direttore generale dell'azienda regionale di coordinamento per la salute, Joseph Polimeni, un incontro urgente su alcune notizie contraddittorie all'interno della SORES. Oggi l'incontro chiarificatore, in cui è stato ribadito il ruolo centrale e attrattivo della Sores, al centro del futuro progetto di emergenza territoriale che prenderà forma attraverso il prossimo piano dell'emergenza-urgenza. Afrim Kasli, segretario Nursid Udine. Abbiamo trovato con la direzione generale dell'ARCS, soprattutto con il dottor Polimeni, tantissimi punti di incontro, peraltro quello che avevamo già discusso nella riunione precedente, certo sono state delle incomprensioni, soprattutto siamo rimasti d'accordo sul fatto di una mobilità aziendale aperta, di un concorso che avverrà nei prossimi mesi per recuperare degli infermieri che mancano in Sores. Vigileremo, continua il segretario del Nursing di Udine, affinché sia applicato quanto detto. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. L'Associazione Regionale dei Vigili del Fuoco Volontari ha beneficiato, grazie alla legge regionale per la valorizzazione dei distaccamenti volontari del Corpo dei Vigili del Fuoco, di un contributo erogato dalla Giunta per l'acquisto di 4 automezzi fuoristrada che verranno impiegati nelle operazioni di soccorso. La consegna ufficiale dei mezzi si terrà al comando di Udine dei Vigili del Fuoco alle 11.30. Alla cerimonia parteciperanno il direttore regionale dei Vigili del Fuoco Fabrizio Piccinini e l'assessore regionale Pierpaolo Roberti. Alle 7.34 una notizia di cronaca nera a Trieste. Un ragazzo di 16 anni, ospite di un centro di accoglienza, è stato aggredito nel tardo pomeriggio di ieri sotto gli affollati portici di Piazza Goldoni da un 19enne, anch'egli straniero, che l'ha brutalmente picchiato e gli ha sottratto il cellulare. Il rapinatore è fuggito a piedi ma è stato fermato poco lontano dagli agenti della polizia accorsi sul posto. L'aggredito è stato portato all'ospedale Burlo Garofalo con vari traumi. La Cimolai e la questione dei derivati. Il colosso delle infrastrutture, senza liquidità per il vincolo degli investimenti, sta elaborando un piano di ristrutturazione e intanto ha presentato in tribunale la domanda per regolare la crisi. La crisi finanziaria della Cimolai è arrivata in tribunale. È stata depositata al Tribunale delle Imprese di Trieste la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi, procedura prevista dal codice della crisi d'impresa e che, comunica la Cimolai in una nota, mette in sicurezza l'azienda, i suoi business e l'occupazione, garantendo la continuità produttiva. L'azienda ha ora 120 giorni di tempo per presentare le sue proposte. Nel piano di ristrutturazione che la società sta elaborando, fanno ancora sapere dal gruppo, è previsto un importante rafforzamento patrimoniale al quale hanno già manifestato interesse diversi soggetti italiani ed esteri. Il colosso pordenonese delle grandi opere in acciaio si trova con un'esposizione ai contratti derivati stipulati con una ventina tra banche e broker che secondo il Sole 24 Ore ammonterebbe a 1 miliardo di euro. Alcuni di questi contratti più speculativi hanno creato problemi per effetto della repentina caduta dell'euro sul dollaro con conseguenze negative sui conti dell'azienda. Un pool di consulenti è al lavoro da giorni per esaminare il portafoglio finanziario e per eventualmente impugnare i contratti. Intanto l'attività procede regolarmente, l'azienda conta circa 1.000 dipendenti e un portafoglio ordini da oltre 830 milioni di euro. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Si apre la 3 giorni nazionale di mobilitazione per la pace che in regione vedrà la manifestazione principale a Udine. Alle 18.30 il ritrovo in piazza Venerio per il corteo che dalle 19 attraverserà il centro cittadino. Aderiscono una 30 tra associazioni e forze politiche, dall'ANPI alla CGL, dal centro Balducci a Lega Ambiente, dalle donne in nero al forum Beni Comuni. Alle 20 sono in programma gli interventi dei rappresentanti dei promotori. La richiesta è per una conferenza internazionale di pace sul conflitto Russia-Ucraina. La logistica di Trieste e del suo porto è il tema del convegno promosso dai ferrovieri dell'UGL in programma dalle 15.30 in via Gulli 12 a Trieste alla tavola rotonda dal titolo La logistica mitteleuropea dal mare alle rotaie. Interverranno tra gli altri l'amministratore delegato di Adriafer Maurizio Cociancic, l'assessora regionale al lavoro Alessia Rosoleni, il segretario generale dell'autorità portuale Vittorio Torbianelli, la segretaria regionale dell'UGL Roberta Vlahov e il segretario nazionale dei ferrovieri UGL Ezio Favetta. Udine, vengono proclamati i primi laureati del corso di laurea in intelligenza artificiale e cybersicurezza, un percorso di studi realizzato dall'Università Friulana insieme a Klagenfurt. Abbiamo intervistato il professor Agostino Dovier tra gli organizzatori del corso e che ci spiega che profilo hanno gli studenti. hanno una preparazione triennale di tipo scientifico, prettamente informatico, ma ci sono anche laureati in matematica, laureati in fisica, laureati in ingegneria. Le domande arrivano da tutto il mondo e abbiamo sostanzialmente studenti che arrivano da Cuba, studenti che arrivano da Pakistan, dall'Iran. Infatti il profilo è internazionale perché Udine e Klagenfurt si uniscono. Quali sono le differenze tra Udine e Klagenfurt in questo senso? Dal punto di vista della didattica, probabilmente Udine in questo momento per la sua storia è molto più forte nell'area dell'intelligenza artificiale. Ci sono una quarantina di ricercatori che fanno ricerca nelle varie aree dell'intelligenza artificiale. Klagenfurt è un po' più ferrata in questo momento, almeno dal punto di vista numerico come numero di professori, nell'area della cyber security. Quindi gli studenti possono apprendere da entrambe le sedi il meglio che gli possiamo offrire. Le aziende sono interessate a questi studenti? Alcune più alla parte di AI, altre alla parte di cyber security. Ci sono stati anche dei bandi ministeriali che cercavano laureati con competenze in cyber sicurezza, perché effettivamente è un punto molto sensibile per la difesa del sistema informativo nazionale, mondiale, insomma, quindi effettivamente sono e saranno ricercatissimi nei prossimi anni. Il concerto Pasolini e la musica 100 anni dalla nascita questa sera a Udine a Casa Cavazzini alle 20:45. A interpretare i testi dello scrittore Alda Caiello assieme alla Freon Ensemble. L'evento costituisce l'anteprima nazionale della rassegna I luoghi di Pasolini, memorie, visioni, passioni, che unirà appunto Udine e Roma, le due città più importanti nella vita del poeta. Continua intanto a Gorizia il Festival Alienazione, che anche quest'anno affronta il tema della follia. Stasera, nelle sale del Kinemax, alle 20:45 ci sarà l'incontro pubblico Il linguaggio della violenza, con protagonista Laura Roveri, sopravvissuta a un tentato femminicidio e ora in prima linea per le battaglie sulla parità di genere e dell'educazione affettiva. Insieme a lei la psicoterapeuta Astrid De Vetti. L'incontro è a ingresso libero. Lo smartphone a scuola, un utile strumento di apprendimento oppure solo una continua fonte di distrazione? A Udine alcune centinaia di insegnanti si sono confrontati sulla questione. Ecco che cosa è emerso. La scuola la stiamo digitalizzando anche grazie ai bandi PNRR. Ma con smartphone che arrivano sempre più precocemente nelle mani dei ragazzi, stiamo davvero aiutando le famiglie a capire come accompagnare i figli nella gestione delle tecnologie? Questa è una delle domande emerse in maniera dirompente da un convegno sul benessere digitale a scuola dell'associazione MEC, Media, Educazione e Comunità, che ha visto presenti tre tra i maggiori esperti a livello nazionale. Marco Gui, professore associato di sociologia dei media alla Bicocca di Milano. Io credo che l'urgenza oggi sia di riflettere collettivamente, scuola e famiglia, su che tipo di gradualità vogliamo organizzare e gestire insieme, che è una cosa che attualmente viene lasciata alle singole famiglie, che tra l'altro mostrano di sentirsi molto sole in queste decisioni. Io credo che sia giunto il momento che tutto questo venga gestito insieme. Una gestione che passa anche dal trovare un equilibrio tra ambienti di vita diversi. Giovanni Grandi, professore di filosofia morale all'Università di Trieste. Il fatto di riuscire a staccare periodicamente con ritmo, questa è la cosa fondamentale, cioè trovare nelle proprie giornate, nelle proprie settimane, una ritmica di online e offline che sia scelta però, che non sia subita, che non sia qualcosa che semplicemente accade. Nel dibattito con gli insegnanti presenti, l'argomento caldo è naturalmente il ruolo dello smartphone in aula. Alberto Pellai, medico e ricercatore, Università degli Studi di Milano. Rendere la scuola un ambiente libero dallo smartphone potrebbe significare sostenere di molto il potenziale di apprendimento di un ragazzo o di una ragazza che per esempio non ha un distrattore potente in mano e lavora con una metodologia carta matita e lettura su libro stampato che la ricerca ci dice va molto più nel profondo e produce un apprendimento molto più duraturo e stabile nel tempo. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. è considerato l'uomo delle nuvole. Vincenzo Levizzani è professore di fisica delle nubi all'Università di Bologna e sarà questa sera a Pasian di Prato per presentare il suo ultimo libro, Piccolo manuale per cercatori di nuvole, pubblicato da Saggiatore, in cui lo scienziato guida il lettore a imparare a leggere il cielo e riconoscere e scoprire tutti i modi in cui le nuvole influiscono sulla nostra esistenza. 7:42, apriamo la pagina degli spettacoli con la musica di Gustav Mahler. È la maestosa seconda sinfonia nell'esecuzione dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, che con il coro del Teatro Regio di Torino sarà protagonista dell'apertura di stagione del Teatro Nuovo di Udine. Il programma è lo stesso del concerto che mercoledì sera ha inaugurato la stagione del Regio, andato in onda su RAI 5 e ascoltabile anche su RAI Play. L'appuntamento è alle 20:45, la direzione affidata a Fabio Luisi per la prima volta sul podio del Teatro Nuovo. Il Teatro di Udine festeggia i suoi 25 anni, sottolineati anche con un libro che è stato presentato ieri sera. Si intitola Il teatro e la sua città, lo pubblica Bottega Errante e i curatori sono Paolo Patui e Francesca Tamburlini. Anche il Comunale di Monfalcone inaugura la nuova stagione teatrale nel segno della grande musica sinfonica. Alle 20:45 di scena il violinista Massimo Quarta e la Friuli Venezia Giulia Orchestra, diretta dallo stesso Quarta. Nella prima parte si potrà ascoltare il concerto per violino orchestra di Paganini e quindi la Sinfonia numero 4, la Tragica di Schubert. Ad anticipare il concerto alle 20 nel bar del teatro il puntuale ritorno di Dietro le Quinte, l'approfondimento dedicato al pubblico condotto dalla musicologa Elena Filini. Una delle compagnie di danza e performing arts più innovative della scena europea, Dudel, approda a Udine sul palcoscenico del Palamostre, ospite di Teatro Contatto. Si intitola Hamlet, l'ultimo spettacolo del collettivo contemporaneo formato da Teodora, Agata e Demetrio Castellucci insieme a Eugenio Resta, ed è una riflessione profonda sull'essere figli, concetto imprescindibile all'esistenza umana. Tre i danzatori in scena incastonati in un imponente tappeto sonoro. L'inizio alle 20:30, al termine Duel Del incontrerà il pubblico. Danza anche a Trieste, ad Hangar Teatri, due assoli e un duo con inizio alle 20:30 aprono la rassegna Hangar Tanz. Le protagoniste sono Daphne Secco, Midori Watanabe e Carlotta Plebs. Ancora musica, terza giornata di Jazz and Wine of Peace, un crescendo di appuntamenti che culminerà al Teatro Comunale di Cormons con due quotatissimi interpreti della scena britannica. Sono Binker Golding, sassofoni, e Moses Boyd, alla batteria, che con il loro ultimo album, Feeding the Machine, uscito a fine febbraio, hanno raccolto un grande consenso anche al di fuori della cerchia dei cultori del genere. Un disco visionario in cui il jazz incontra l'elettronica, innervato da echi ambient e campionamenti, con la parte live sempre sorprendente. Per la prima volta Binker e Moses lo presentano in Italia. Il programma giornaliero del festival si aprirà alle 11 all'Abbazia di Rosazzo, con il duo Girotto abbracciante, sassofono e fisarmonica, e proseguirà alle 15 a Mossa, a Villa Codelli, con il trio capitanato dal polistrumentista Gabriele Mitelli. E da segnalare alle 18 a Lucinico, a Villa Attems, il concerto dello statunitense Thumbscrew Trio. Altri spettacoli a Gorizia: il sassofonista Federico Mondelci e il fisarmonicista Simone Zanchini sono i protagonisti del concerto latino-mediterraneo da Shostakovich a Piazzolla. È uno degli appuntamenti per la stagione dell'associazione Lipitzer al Teatro Bratusch alle 20:30. Il Festival di Musica Antica Wunderkammer fa tappa a Trieste nella Chiesa della Beata Vergine del Rosario. Alle 20:30 il concerto dal titolo I Tesori del Rinascimento con il tenore Giampaolo Fagotto e l'organista Davide De Lucia. In programma l'esecuzione solistica di brani polifonici del Cinquecento e mottetti del Primo Seicento. Al Sesto a Reghena, in Abbazia, alle 20:45, Fa Diesis Accordion Festival propone il concerto Mantice Sacro con la fisarmonica di Gianni Fassetta e l'antico organo suonato da Enrico Zannovello. Programma tra Bach, Handel, Zöller e Vivaldi. Ad Azzano Decimo, per il Festival Internazionale di Teatro Amatoriale al Teatro Mascherini, alle 21, di scena la compagnia Teatro Immagine di Salzano, La strana storia del dottor Jekyll e del Mr. Hyde. E siamo allo sport, calcio, Serie C. Il Pordenone batte il Trento 2-0 nel turno infrasettimanale. La risolve entrando dalla panchina Francesco Deli. Il Pordenone risolve solo alla distanza la sfida con il Trento al Tegel di Lignano. I neroverdi si impongono per 2-0 grazie ad una doppietta di Deli nell'ultima mezz'ora. La rete del vantaggio grazie ad un passaggio smarcante in area per il numero 10 neroverde che supera Marchegiani e porta avanti i suoi. Il raddoppio in pieno recupero. Questa volta il trequartista fa tutto da solo, semina mezza difesa e chiude da sottomisura. Conclusione positiva per i padroni di casa di una partita fino a quel momento equilibrata. A tabellino anche il palo di Ballarini per il Trento in apertura e l'altro legno centrato poco dopo da Magnaghi per i padroni di casa. Il Pordenone torna al secondo posto ad una lunghezza dalla Renate capolista in compagnia di Lecco e Padova. I neroverdi tornano in campo domenica pomeriggio per la sfida con la Feralpi Sarò. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. La rassegna stampa sul piccolo, il titolo principale sulle infrastrutture, il libro bianco di Unioncamere, ferrovie, porti, strade, le 10 opere urgenti dalla linea veloce Trieste-Venezia allo snodo di Gorizia, imprese in pressing. Nella cronaca di Trieste ampio spazio alla nuova linea del termovalorizzatore con una grande foto in prima pagina, tra gli altri temi un'intervista con il sindaco di Piazza sul primo anno del suo quarto mandato. Dice che vuole rifare Piazza Unità e che le priorità sono i grandi parcheggi al Molo Quarto e al mercato ortofrutticolo all'ingrosso. Quanto alla piscina acquamarina, sarà demolita subito dopo la sala Tripkovic e se ne farà un'altra. Dalla cronaca giudiziaria, assolto l'autista che investì un anziano in via Mazzini. L'uomo perse una gamba, era l'ottobre del 2019. Nell'edizione di Gorizia e Monfalcone del Piccolo, la fotonotizia è per i centri commerciali, parcheggi al buio per risparmiare energia. A Gorizia si prepara il trasloco della questura con il nuovo appalto e da Monfalcone saranno risarciti due fratelli bengalesi che un finanziere aveva accusato di terrorismo inventandosi tutto. Il finanziere, un napoletano, è stato condannato a 7 anni. Le infrastrutture carenti sono il tema principale anche del Gazzettino del Nord-Est, nelle sue edizioni del Friuli e di Pordenone, che scrive: siamo gli ultimi della classe. Il Friuli occidentale è il territorio con i maggiori ritardi per ponti, strade e ferrovia. Il libro bianco di Unioncamere pone l'accento anche sull'urgenza di completare la Cimpello Sequals. Al centro pagina la centrale del Sore, salto là dei tecnici al posto degli infermieri. Polimeni corregge il tiro e rassicura: ci sarà un percorso di mobilità e un concorso per assumere infermieri neolaureati. Ora cresce il PIL, ma per 2 anni sarà crisi dura, e la sintesi del rapporto di Confindustria, notizia di cui abbiamo dato conto nei nostri TG e giornali radio. La cronaca della rapina a un distributore mercoledì, prima della chiusura a San Giovanni Natisone, portato via l'incasso. Il caso poi della nuova sede dell'ARPA che secondo la CGIL non risparmia energia pur avendo acceso il riscaldamento 10 giorni più tardi. Il risparmio maggiore secondo il sindacato sarebbe con il lavoro agile. Cimolai Spa è partita l'operazione salvezza, arriva il commissario, scrive l'edizione di Pordenone del Gazzettino che ha la foto al centro pagina per il Pordenone. Trento liquidato, i neroverdi sono secondi in classifica, quindi i lavori per il park di Piazza del Popolo che farà deviare una roggia. Sul Gazzettino all'interno la notizia della morte ad Aviano di Pietro Marcolin, aveva 101 anni ed era il maître degli Agnelli e di altri VIP. Il Messaggero Veneto, l'apertura di entrambe le edizioni è dedicata alla manovra della regione per aiutare le imprese, stop al pagamento IRAP alle aziende, 56 milioni, sostegno ai comuni per le bollette. Alle aziende, si legge ancora, viene lasciata la possibilità di versare l'intero ammontare della tassa a giugno del 2023. Nel pacchetto di aiuti previsti anche 10 milioni per i comuni. La crisi nelle previsioni di Confindustria poi, che riduce le stime della crescita fino al 2024, che però restano positive. Nell'edizione di Udine la fotonotizia è per la sicurezza dopo le ripetute risse avvenute in città. Il comune chiede l'esercito in Borgo Stazione e in via Cividale. Il controcanto è affidato al presidente dell'Oikos. La politica del manganello e quella della segregazione non risolvono il problema, dice. Taglio basso, installata in città le luci natalizie, le prime luminarie a 2 mesi da Natale. Non ci rinunciamo di fronte all'aumento dei costi, dice l'assessore Franz. Ci attende un Natale meno sfarzoso, ma la città sarà comunque accogliente. Edizione di Pordenone del Messaggero con la fotonotizia, app e vetrine virtuali per rilanciare il commercio, con 2 pagine dedicate alle iniziative per adattare ai negozi tradizionali le tendenze del digitale, e accanto anche la vicenda del Cimolai e lo sport con la vittoria del Pordenone. In chiusura segnaliamo ancora alcuni appuntamenti: serata Ceghe d'Accio con il padiglione 6 della Fiera di Udine, che si trasforma in una discoteca degli anni 80 con le hit della dance music girate sul vinile da DJ Roberto Pontoni. All'evento di questa sera prevista anche la musica dal vivo di un gruppo di rilevanza nazionale di cui non è stato svelato il nome. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia aprirà subito dopo il GR delle 11 con la presentazione dei programmi e le notizie più importanti della mattinata a cura della nostra redazione. Alle 11.10 il programma in friulano sarà dedicato a un'applicazione per smartphone che raccoglie una serie di percorsi nel territorio interno al lago di Cavazzo. A seguire un tranquillo weekend da paura sarà a Cordenons per la festa della zucca a Gorizia con una delle protagoniste del Festival Alienazioni, a Palmanova per il Festival Circense, San Vito al Tagliamento con i concerti al Teatro Arrigoni. E questo è tutto per il giornale radio, che è stato redatto da Giampaolo Mauro, Nada Cioc e Dario Ronzoni che vi parlano, con la collaborazione tecnica di Walter Vidonis. Ha collaborato in segreteria Daniela Sossi. E questo è tutto, grazie e buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.